Saussure introduce anche un'altra distinzione che non è, cioè, in realtà nota da prima di lui, ma a cui Saussure dà un significato particolare e che vorrei usare adesso per continuare questo discorso sulla questione della comunicazione. Ed è la distinzione tra il sintagma e il paradigma. Il sintagma e il paradigma per Saussure sono due diversi aspetti del sistema linguistico. Vabbè, prima di questo c'è la distinzione che Saussure fa tra langue e parole, che però mi sembra più semplice perché l'aspetto linguistico, cioè langue, della lingua è semplicemente il suo essere sistema. E poi è la stessa cosa che Chomsky riprenderà molti anni più tardi con la differenza tra competenza ed esecuzione. La langue è la competenza, cioè è la conoscenza della lingua come sistema, in quanto tale, eccetera. La parola è l'esecuzione dell'atto linguistico, quindi la parola è un insieme. Ovviamente per Saussure l'unico studio possibile strutturale della lingua è quello della langue, non quello della parola. Instudiabile, non si può studiare la parola perché sono esecuzioni diverse, ognuno ha la sua, a parte il suo accento, ma anche il suo uso della grammatica. Insomma, la langue è un insieme di idiosincrasie, di cose particolari, di produzioni linguistiche, diciamo, particolari. La langue è la struttura che gli sta dietro. All'interno della langue, però, secondo Saussure, si può individuare un aspetto sintagmatico e uno paradigmatico. Che cos'è il sintagma? Il sintagma è la catena linguistica in quanto tale, cioè la struttura sorgiacente a una costruzione linguistica in quanto tale dal punto di vista della costruzione della frase. Quindi si ha una, diciamo, studiamo l'aspetto sintagmatico di una lingua quando studiamo le regole con le quali si costituiscono le catene fonetiche, grammaticali e sintattiche che costituiscono i singoli atti di parola. Il sintagma quindi è un oggetto lineare, perché è un susseguirsi di, nella parola parlata, di suoni, nella parola scritta di lettere, combinate secondo varie regole, e i rapporti di tipo sintattico all'interno di una produzione linguistica particolare afferiscono al sintagma, hanno a che fare con il sintagma, sintassi, sintagma. Quindi il sintagma è l'insieme di rapporti che si instaurano tra le diverse componenti, lettere, sillabe, parole, all'interno di una catena linguistica particolare, di un atto particolare, della costruzione di una particolare catena linguistica. Il rapporto sintagmatico tra le varie componenti di un discorso è un rapporto in presenza. In presenza. In presenza. Stiamo parlando latino, scriviamo così, praesentia, che si legge presenza, in presenza, latino è presenza. Il rapporto sintagmatico è un rapporto in presenza, è un rapporto tra componenti che fanno effettivamente parte della catena sintagmatica. In realtà però, ci spiega Saussure, per poter costruire dei sintagmi sensati, sia che abbiano a che fare con le regole, quindi siano riconosciuti dagli altri come dotati di significato, bisogna che ci sia un rapporto non esplicito ma implicito, che fa parte della conoscenza di fondo, della nostra conoscenza di fondo della lingua, anche non della conoscenza esplicita della grammatica. Questo non vuol dire che parla solo chi conosce la grammatica, parla anche chi non conosce esplicitamente la grammatica, ma ha comunque una conoscenza della lingua che è grammaticale, cioè sa grosso modo che cosa può dire e che cosa non può dire, sa che se pronuncia la parola cane e ci mette un articolo davanti, ci deve mettere l'articolo maschile il e non l'articolo femminile la. Se invece poi è slavo non ci mette nessun articolo, perché le lingue slave non hanno articoli e quindi quando parlano l'italiano o anche l'inglese non mettono nessun articolo. Ma insomma, per il parlante italiano, per l'inglese questo problema non ce l'hanno perché non c'hanno genere l'articolo, quindi ogni lingua ha le sue cose. Allora, il rapporto tra la parola cane e il genere grammaticale a cui questo appartiene non è un rapporto sintagmatico, è un rapporto di paradigma, è un rapporto di posizione della parola cane all'interno del sistema linguistico. Ma il rapporto paradigmatico è ancora più basilare. Quando io utilizzo la parola cane, per esempio, io devo sapere che questa parola è distinta intanto a un livello fonetico da altre parole simili della mia lingua. Per esempio, è diversa dalla parola cane, dalla parola pane. Quando io pronuncio la parola cane, implicitamente, anche se non ne sono cosciente, la contrappongo alla parola pane, perché so che è che ha lo stesso numero di fonemi, e addirittura tre fonemi uguali, ma il primo fonema diverso. Quindi c'è una opposizione cane-pane, o una opposizione cane-pane e qualsiasi altra parola, per esempio, che cominci, la parola dane non esiste, nella lingua italiana la parola cane neanche, ma se esistessero ci sarebbe anche una opposizione implicita con quelle. Quando io dico che amo una persona, so che è diverso da quando dico che la amai, o che è diverso da quando dico che la amerò. E qui probabilmente il significato del termine paradigma per voi risulta più chiaro, perché questo è esattamente ciò che noi chiamiamo un paradigma verbale. Da una unica radice, la nostra è una lingua flessiva, per un cinese questa cosa ovviamente non avrebbe nessun senso, ma per noi che parliamo per un parlante di una lingua indo-europea, quindi per noi, per i francesi, per i tedeschi, per gli inglesi, per i russi, per i norvegesi, per i persiani e per gli indiani, funziona. Per un cinese non funziona, funziona sì e no per un ungherese, sono tutte lingue non indo-europee, quindi non completamente flessive o addirittura per nulla flessive come il cinese, sono lingue agglutinanti o isolanti. Però per una lingua flessiva come la nostra, il paradigma quindi significa che c'è una radice verbale, per esempio am, che viene declinata in maniera diversa a seconda che io voglio esprimere un'azione o una condizione che vale per il presente, per il passato o per il futuro, con un sacco di sfumature in più. Allora, anche qui quando io dico io amo Maria, nella frase io amo Maria, oltre che questa frase è opposta a io amo Carla, io amo Giovanna o io amo Francesca, è anche opposta implicitamente alle frasi io amerò Maria o io amai Maria, no? Perché allora siamo qui di fronte ad un rapporto paradigmatico, c'è un paradigma dietro le lingue che è una conoscenza di sfondo implicita che io non ho. È come camminare, io non ho, quando io cammino non è che penso a come devo mettere un piede sull'altro, se no in genere inciampo e vado per terra, ma quando ero piccolino ho imparato, più o meno ognuno di noi ha imparato, a come muovere un insieme abbastanza complicato di muscoli che fanno sì che io possa stare in piedi dritto, perché l'uomo non nasce bipede, eh? La specie umana è bipede, la filogenesi dell'uomo è bipede, ma non l'ontogenesi del singolo individuo. Il singolo individuo, mentre il cerbiatto nasce quadrupede, infatti cammina dopo 5 minuti e un quarto d'ora, come si vede benissimo nel film Walt Disney Bambi, eh? Dove si vede, grosso modo, cioè fanno così, insomma, ci vuole un po' di questo 4 anni. Invece il bambino ci mette più di un anno per imparare, perché è una cosa culturale. Culturale però poi in qualche maniera pretablata. Dopo i primi mesi di camminamento, come andare in bicicletta, per chi ci sa andare, dopo un po' uno non o come a nuotare, qualunque attività fisica ripetitiva, dopodiché uno se lo dimentica e se lo cabla, se lo registra nel, diciamo, cervello, c'è un software che l'analogia in termini informatici sarebbe quasi un firmware, perché è un pezzo di software che però diventa quasi parte dell'hardware, non è che io ci penso più. Idem, la conoscenza del paradigma per la lingua, però dietro c'è questa, diciamo, conoscenza, perché io possa dire perché io possa scegliere appropriatamente fra le tre cose che posso dire, io amo Maria, io amai Maria o io amerò Maria, devo sapere, devo essere cosciente di avere un paradigma dietro, che sta questa. Quindi il rapporto paradigmatico, che c'è o di tipo fonetico o di tipo grammaticale, che c'è tra gli elementi di una società linguistica, non è un rapporto in presenza, perché quando dico io amo Maria, non dico io amai Maria, non dico io amerò Maria, quando dico amo, non dico né amai né amerò, quindi amai e amerò li ho esclusi, ma il loro rapporto mi deve essere chiaro, anche sia pure bambino. Quindi, mentre il rapporto sintagmatico è un rapporto in presenza, il rapporto paradigmatico è un rapporto in assenza, cioè in assenza dei componenti con cui faccio il confronto. Quindi questo è il paradigma. Ora, il paradigma è altrettanto fondamentale del sintagma nella produzione linguistica. Non ci può essere un sintagma se non c'è dietro un paradigma. Allora, vorrei fare un uso adesso apertamente metaforico di questa dicotomia sossuriana, per cui potete anche respingerlo se vi pare troppo audace, o se vi pare che non sta con cazzo. Allora, io tenderei ad interpretare la storia della comunicazione umana come il passaggio da una comunicazione totalmente sintagmatica, cioè totalmente in presenza, a una comunicazione sempre più paradigmatica, cioè sempre più in assenza. Che cosa voglio dire? Dei due grandi strumenti che abbiamo detto prima, di comunicazione dell'uomo, cioè la parola e l'immagine, entrambe sono all'inizio comunicazioni puramente sintagmatiche, cioè esse presuppongono il contatto diretto dell'ascoltatore con una certa catena verbale o una certa immagine presente in un certo luogo, ma la comunicazione vale soltanto sino a che io sono in presenza o dell'emittente del messaggio verbale o di un supporto sul quale è stato depositato sul quale è stata depositata l'immagine. Giusto? Non è possibile comunicare con una persona in questo stadio, a questo stadio della storia della cultura umana, se questa persona non è lì, non mi sta parlando. Se quindi non produce in quel momento, in quell'istante, certi sintagmi. Non si può parlare con un morto, non si può parlare con un assente, non si può parlare con una persona lontana, non si può parlare con lo sciamano quando lo sciamano sta facendo il suo viaggio nell'altro mondo, non si può parlare solo quando torna. E allora è lì con noi e ci dice quello che ha fatto, quello che gli è successo. Non si può fruire, non si può sapere cosa, che cosa significa, cosa intende dire l'immagine del bisonte di Lascaux, non si piglia se non si va nella caverna e si va lì e si guarda l'immagine. Quell'immagine lì non si può toccare. La storia della comunicazione umana è, allora questo è un vincolo, questo è un vincolo, perché mi vincola, vincola la mia comunicazione alla, alla presenza o di un produttore di suoni o di un supporto di immagini. Quindi io il suono, la comunicazione verbale ha questo vantaggio sulla comunicazione iconica, e cioè che anche in questa fase il produttore di suoni si può spostare, perché è un essere umano, quindi relativamente se lui si sposta o io mi sposto, ci spostiamo relativamente, io posso andare a cercarlo, ma anche lui può venire a cercare me. Quindi non è come l'oracolo di Zeus all'Olimpia, che per andare a sentirlo devo andare io là, non è come l'oracolo, non è come la Pizia a Delfi, io devo andare, io mi devo recare a parlare con Apollo per il tramite della Pizia, devo andare a Delfi, insomma, non là. Mentre per tutta una fase molto lunga la comunicazione iconica è invece legata a un luogo preciso. L'immagine sta lì, non si può toccare. Può stare sulla parete di grotta, sulla parete di un edificio, dove diavolo sia, ma insomma. Quindi ci sono dei precisi limiti spaziali e temporali per la comunicazione. La comunicazione sia verbale che iconica ha un raggio d'azione. Forse la seconda è meno temporale. E cosa? Ha un limite meno temporale la seconda, quella iconica. Quella iconica è un po' meno temporale, però spazialmente è molto più fissata di quella. Allora, mentre a volte io avrei la necessità, vorrei tanto che ciò che ho detto, ciò che ho detto una volta, potesse essere inteso e potesse essere capito, potesse essere comunicato ad altre persone anche dopo che io l'ho detto. Ma non posso farlo fino a che la mia comunicazione rimane soltanto sonora, rimane soltanto verbale, fino a che la catena sintagmatica ha un carattere soltanto fonetico. Come si chiama l'invenzione dell'uomo per svincolare la sua comunicazione verbale da questo limite? Io lo sapete tutti. No. Ce n'è un altro scrittura. Ovviamente la scrittura. Ovviamente la scrittura. La scrittura è il primo tentativo di rendere in qualche maniera paradigmatica, cioè in assenza, al di fuori dei limiti della contestualità, la comunicazione verbale. E questo spiega perché la scrittura abbia avuto così tanta influenza nello sviluppo delle culture dell'uomo. Il fatto che non si possa parlare di civiltà fino a che non sono giudizi di valore, cioè, non si può parlare di civiltà fino a che non c'è la scrittura. E addirittura il grande complesso di rivoluzioni tecniche che va sotto il nome di neolitico, cioè la scoperta di un modo diverso di levigare la pietra, ma soprattutto poi di trattare i metalli, l'invenzione dell'agricoltura, cioè un modo di non dipendere da come certi prodotti della terra crescono spontaneamente, ma da un intervento attivo dell'uomo per farli crescere in un certo modo, per l'agricoltura. Questa è la più grande rivoluzione tecnica che l'uomo abbia fatto dalla sua origine fino a non riesce a stabilizzarsi, cioè non riesce a espandersi e a diventare il modo di produzione egemone fino a che non c'è la struttura. L'agricoltura, diciamo, la rivoluzione neolitica comincia, è documentabile e databile almeno fra gli 8.000 e i 7.000 anni prima di Cristo. La città più antica di cui sono trovate delle tracce è quella di Çatalhöyük in Anatolia, che all'incirca è databile al 7.000 a.C., quindi 9.000 anni fa. Ma traccia Talu Yuk e cioè sino a che questa rivoluzione tecnica non ha il supporto di una rivoluzione comunicativa, cioè quella della scrittura, non c'è una stabilizzazione, cioè non c'è la creazione di una società stabilmente basata sull'agricoltura e quindi sulla gestione di un surplus alimentare, che è la caratteristica fondamentale di quelle società e che è la vera origine della nascita della civiltà, cioè dello Stato, cioè di un insieme di specialisti che gestiscono apparentemente o diciamo esplicitamente, dichiaratamente, anche se magari non è sempre vero, a favore di tutta la società, gestiscono questo surplus alimentare che le tecnologie, le tecniche dell'agricoltura sono in grado di diciamo produrre. E questo è importante da capire anche perché, come spesso accade nella storia dell'uomo, nell'invenzione della scrittura c'è una eterogenesi dei fini. Madonna, che è l'eterogenesi dei fini? Termine di Hegel e comunque per quelli che sono più come noi, vuol dire semplicemente che molte cose vengono inventate per uno scopo, poi ne hanno un altro. La scrittura non è stata inventata affatto per stabilizzare la catena parlata e trasferirla sulla... Le origini della scrittura sono insieme più concrete e più astratte. Più numeriche forse. Molto numeriche, certo. La scrittura nasce semplicemente per agevolare al magazziniere, diciamo mesopotamico, tanto per capire in qualche modo la scrittura cuneiforme nasce lì. Questa è una delle origini. Poi nel corso dell'Egitto ha avuto un'altra origine. Ma insomma, chiaramente in Mesopotamia, in tutte le civiltà mesopotamiche in cui è nata, indipendentemente, la scrittura ha questa, diciamo, origine, serve come un ausilio per il magazziniere per sapere cosa c'è dentro quel certo orcio, cosa c'è dentro quella certa cesta, eccetera, cioè recipienti chiusi in cui è appunto contenuto il surplus alimentare, il surplus, il prodotto dell'agricoltura che deve essere gestito e poi ridistribuito socialmente. E quindi all'inizio ci sono dei simboli, sono dei token, dicono in inglese, dei gettoni, dei tondi o delle cose in ceramica, con dei simboli, dice questo è il simbolo del grano, questo è il simbolo dell'orzo, questo è il simbolo del latte, questo è il simbolo dell'altro, no, che non si conserva, no, le robe che si conservano, questo è il simbolo dei fichi secchi, che avete già trovato, andiamo di fichi nelle civiltà cretesi e in quella primicenea, i fichi secchi. E a un certo punto, e quanti ce n'è? Quindi probabilmente i primi simboli, i primi segni grafici hanno un'origine numerica. Poi, però, abbastanza rapidamente, perché c'è pochissimo, ci sono pochi secoli tra, faccio proprio, la dico proprio così, ci sono pochi secoli tra l'invenzione della scrittura, per esempio cuneiforme, dei sumeri che incidono sulla argilla fresca con una punta la creta e poi quando si secca questo segno rimane una punta triangolare, sembra un culo, sembra uniforme. Sono pochi secoli tra la comparsa del primo sistema di scrittura cuneiforme, che ha probabilmente, cioè almeno i cui reperti afferiscono quasi solo a registrazioni di magazzino o al limite semmai delle bolle di entrata e uscita, insomma, delle tavolette di creta, dice entrati tot cosi, usciti tot cosi. Ci sono pochi secoli tra queste registrazioni, come diciamo, questi reperti del primo inizio della scrittura e la prima opera letteraria dell'umanità, cioè la prima narrazione di avvenimenti fatta usando questo sistema di scrittura, che è il più antico documento conosciuto in cui la scrittura viene usata molto prima della Bibbia, molto prima di Omero, molto prima di qualsiasi altro documento scritto che si possa vagamente definire letterario. Quindi rapidissimo, 2005, tra 2007 e 2005, pochissimi secoli dopo. Le prime tavolette sumeriche del Codo sono del Cristo, forse meno di 500 anni dopo, arriva già un uso totalmente imprevisto e inedito. Ma forse già esisteva in una forma più elementare. Chi lo sa, non abbiamo, sicuramente esisteva in una forma orale, chiaramente le copie di Gilgamesh, come peraltro l'Iliade e l'Odissea, sono una narrazione orale che sicuramente molto molto più antica, forse anche di 1000 anni prima, che si tramandava in quella particolare cultura. Ad un certo punto qualcuno si accorge, è la stessa cosa che con molta maggiore importanza per noi succederà all'incirca fra l'VIII e il VII secolo a.C. in Grecia, quando in occasione della istituzione delle feste Panatenee ad Atene, cioè delle feste in cui si festeggiavano contemporaneamente tutti gli dei che erano i protettori della città in qualche modo, istituite dal tiranno Pisistrato, in cui per la prima volta si pensò di recitare tutti insieme due dei più importanti cicli di narrazioni rapsodiche della cultura orale greca, e cioè quelle che noi oggi conosciamo come Iliade e Odissea. E probabilmente fu in quella occasione che probabilmente queste narrazioni vennero trascritte utilizzando un sistema di scrittura che i greci avevano inventato adattando l'alfabeto fenicio, che è un alfabeto di una lingua flessiva ma diversa dalle lingue semitiche. Nelle lingue semitiche le vocali non hanno la stessa funzione flessiva che hanno nelle lingue, in quasi tutte le lingue indo-europee, per cui da un certo punto di vista le lingue semitiche possono fare a meno di indicare i suoni vocalici, perché bastano le consonanti identificano già la parola, no? Mentre non è così nelle lingue europee. È possibile in genere che anche le vocali abbiano un valore semantico, cioè servono per indicare, quindi sarebbe impossibile, sarebbe molto difficile, molto complicato, trascrivere in maniera fonetica una lingua indo-europea senza avere dei suoni per le vocali, mentre per i fenici, per le lingue semitiche, tipo l'arabo, l'ebreo, l'antico fenicio, eccetera, è molto più semplice fare così per loro. Quindi i greci si impadroniscono di questo alfabeto fenicio che conoscono probabilmente nell'area di Cipro fra il X e il IX secolo all'Anno Cristo, ci mettono poco più di 100 anni, poi genialmente utilizzano alcuni segni dell'alfabeto fenicio che corrispondevano a suoni consonantici non presenti nella loro lingua, hanno la grande idea di indicare le vocali, e così facendo inventano l'alfabeto, l'unico sistema di questo tipo che è mai stato inventato nella storia del mondo, che è stato inventato una volta sola, e da lì ha dato origine a una serie di cambiamenti di mentalità, di modi di pensare, eccetera. Bene, ora, quindi, però quello che vi dico adesso vale non solo per la scrittura alfabetica, vale in particolare, forse, per la scrittura alfabetica, vale in genere per qualunque sistema di, scrittura. Mentre la dimensione paradigmatica, quindi nella fase orale della lingua, è presente sullo sfondo, ovviamente occorre una dimensione paradigmatica, ma non c'è una dimensione paradigmatica nell'atto comunicativo. La dimensione paradigmatica è presente come conoscenza di sfondo, implicita nella mente di chi, nell'apparato cerebrale di chi produce il messaggio. Quindi è un prerequisito per la generazione di un messaggio e la comprensione di un messaggio, ma finché la comunicazione è orale ci deve essere sempre un essere umano che parla e uno che ascolta perché ci sia comunicazione. Non è possibile una comunicazione in assenza dell'emittente. La scrittura realizza uno spostamento della parola nello spazio e nel tempo. Io posso parlare per traslato attraverso la scrittura a persone che sono lontane da me nello spazio, quindi che io non posso raggiungere con la mia voce, e a persone che sono lontane da me nel tempo, cioè posso parlare a loro anche dopo che sono morto. Perché se rimane qualcosa su un supporto durevole su cui io abbia scritto abbia trascritto in qualche maniera, in vario modo, non in modo fonetico magari, anche in modo ideografico, ma basta che io abbia trascritto il contenuto. E quindi ecco che è quella che io chiamo una comunicazione, in senso traslato, paradigmatica, perché è una comunicazione che può avvenire anche in assenza del suo creatore. Ecco perché... il concetto di, cioè non capisco bene la differenza tra sintagma e paradigma. Allora, la differenza, cioè, è così, sono così distaccati tra le due cose. È una differenza abissale. Fino a che io non ho inventato uno strumento di traduzione della catena verbale parlata a un qualche cosa di materiale su un qualunque supporto, la comunicazione tra due esseri umani è possibile soltanto se entrambi sono presenti. Ok? Una volta che io ho inventato un modo per trasferire l'equivalente di ciò che ho detto, magari non con un alfabeto fonetico, magari con un sistema pittografico, lo trasferisco su di un altro supporto, è possibile che io, creatore di questo messaggio, parli con questa persona anche se non la vedo, anche se io non ci sono, quindi anche se la persona è lontana da me o anche dopo che io sono morto. Ma la dimensione sintagmatica non è relativa non al fatto che io lo dico, ma a quello che dico. Allora, cioè, se io dico cane, cioè io posso dire cane anche se il cane non c'è nella dimensione orale. Allora, Loretta, è un uso metaforico che io sto facendo di questi termini. Chiamo comunicazione sintagmatica una comunicazione in presenza, cioè una comunicazione che richieda la presenza di entrambi gli attori della catena comunicativa, cioè sia l'emittente che il ricevente. Ma per dire la presenza di entrambi si intende tipo il sistema di comunicazione, cioè quello che si mette in comune, cioè che il sistema di comunicazione sia lo stesso? No, presuppone che le condizioni di questa comunicazione richiedano la presenza contemporanea e simultanea. Per una cosa fisica. Sì, fisicamente. Ci devo essere io. Se io voglio parlare con te, ci devo essere. Se io non ci sono, io non ti posso, non ti posso parlare. Mentre se io ho un sistema per cui io posso dirti quello che voglio dirti senza che io ci sia, ma te lo scrivo su una tavoletta o su un foglio di carta e te lo mando in qualche modo, o con un piccione viaggiatore, o con la DHL, o con qualche altro, diciamo, strumento, allora tu puoi leggere quello che io ho detto, io posso comunicare con te anche se non sono presente. Quindi la scrittura è quello che io chiamo metaforicamente comunicazione paradigmatica, perché è una comunicazione in assenza fisica del soggetto emittente. La mia, possiamo dirlo con termini un po' più contemporanei e comprensibili a noi, la scrittura realizza una presenza virtuale dell'emittente. Io posso anche non sapere qual è la faccia del signor Wilhelm Flusser, ma se leggo un libro del signor Flusser, in qualche maniera ho un rapporto con una emanazione di Flusser che è questo libro. Flusser è virtualmente presente con me, virtualmente in modo molto, nel caso del libro, di qualunque libro, nel caso della scrittura, in maniera molto limitata, è una virtualità molto povera, non so quale fosse il tono di voce, non so. È chiaro che la scrittura rappresenta un impoverimento della comunicazione, perché nella scrittura io non ho, se voi leggete, se voi vi leggete, se voi anche foste in grado rapidissimamente di trascrivere tutte le parole che io dico e poi ve le leggete, vi manca qualche cosa, vi mancano le facce da stronzo le facce, vi manca come strabuzzo gli occhi, vi mancano i gesti, vi manca l'intonazione, vi mancano un sacco di robe, no? Quindi è chiaro che la scrittura impoverisce il linguaggio, però in cambio di questo impoverimento realizza una vince i vincoli, elimina o attenua di molto i vincoli spaziali e temporali della comunicazione verbale, la quale comunicazione verbale è fortemente immediata, no? Perché c'è una presenza di entrambi, mentre quella della scrittura è fortemente mediata, insomma, quello che si perde da una parte si guadagna su un altro campo, poi ognuno. D'altra parte, se la scrittura ha avuto così tanto successo, vuol dire che una qualche funzione ce l'aveva, se no la si sarebbe abbandonata in fretta. Certamente è più, io continuo a pensare che sia più divertente ascoltare una persona e vederla parlare che non leggere quello che scrive, questo è ovvio. Però, siccome non posso andare in giro in tutto il mondo e leggere, parlare con Flusser, parlare con, poi secondo Benjamin è morto 4 anni prima che nascessi io, con Benjamin ho tagliato fuori totalmente, cioè se non leggevo qualcosa di quello che aveva scritto, sarei stato, quindi tutto sommato è meglio che la scrittura ci sia, però certamente ho una rabbia di non sapere come diavolo, a parte che non hai capito quasi nulla, perché la mia conoscenza del tedesco è molto elementare e molto povera, però insomma avrei dovuto impararlo, mi manca un po' la voce di Benjamin, però voglio dire pazienza, insomma. Per un po' mi mancava quella di Marx, mi mancano un po' le voci di quelli che sono morti, certo. Però almeno uno legge quello che si l'ho letto, non è convinto. Di cosa non fai niente? No, ma perché come per le immagini, cioè io lo capisco quello che scrive Flusser perché ho in comune con Flusser un sistema comunicativo. Sì, che è condiviso. Che è condiviso. Se non ci fosse quel sistema comunicativo sarebbe come l'affresco della grotta per certo, me Flusser. Certo. Quindi quello che rimane come in assenza è il sistema comunicativo comune con Flusser, non nel fatto che lui non ci sia. Cioè rimane di sfondo il sistema comunicativo che mi permette la decodifica di quel testo, se no altrimenti. Certo, vabbè, come questo, sì, questo non l'ho detto perché è stato ok, questo è particolare, ma questo vale sia per la comunicazione scritta che per quella parlata, sia che tu se viene Inti e ti parla in coreano o se tu pigli in mano un libro in coreano non ti capisci una fava in tutti e due i casi, sia se c'hai davanti Inti sia se leggi un libro coreano, è ovvio che sia la comprensione del messaggio parlato sia la comprensione del video presuppongono che tu conosca la lingua, insomma, che tu condivida con questa persona. Io dico che la condizione paradigmatica c'era anche nella cosa orale, magari nella scrittura riesce a distinguersi da quella sintagmatica, a dividersi. Ok, accetto l'obiezione. Non la chiamiamo più comunicazione sintagmatica e comunicazione paradigmatica perché fa, confusione. La chiamiamo comunicazione in presenza e comunicazione in assenza. Va bene? Sei più contenta così? Ho detto paradigma, certo, ci vuole un paradigma dietro, ma ci vuole più che un paradigma, ci vuole per poter fruire di un messaggio occorre globalmente la condivisione di un codice. Devi sapere la stessa lingua. No? Se tu leggi Flusser in tedesco, non ci capisci niente. Io ci capisco poco più di te, ma sempre un poco. Se lo leggi in inglese ci capisci già un po' di più, poi di poco. Certo, se ci leggiamo Flusser tradotto in coreano non abbiamo niente, né io né te, però non ti capisce. Sì. Perché c'è nata. Vabbè, ok, questo è ovvio. Quindi c'è un paradigma sempre, c'è una dimensione paradigmatica. Certo. Allora, la dimensione paradigmatica però nel caso della. Cioè rimane sullo sfondo nel caso del. Cioè, ed è un paradigma, diciamo, di tipo grammaticale, di tipo linguistico, diciamo. La scrittura rappresenta una condizione paradigmatica anche dal punto di vista, diciamo, dell'atto comunicativo, della materialità della comunicazione. Cioè, l'aspetto, una comunicazione sintagmatica sul piano materiale è una comunicazione nella quale c'è una modificazione dell'ambiente intorno a te derivata da delle azioni precise di chi sta emettendo il messaggio, cioè in questo caso di me che parlo, sono io che faccio muovere l'aria e creo le onde di compressione, di rarefazione fra me e te, fra me e voi e poi il vostro timpano e la vostra auditiva. Nel caso della scrittura e della lettura c'è un paradigma anche dal punto di vista materiale, perché c'è una mediazione in più, per cui tu, se tu sei un analfabeta e non sai leggere e scrivere, questo mezzo di comunicazione è muto per te, non ti dice niente. Mentre se tu sei analfabeta e c'è Flussere che parla, anche un analfabeta può sentire Flussere e può anche capire quello che dice, perché sono detto che gli analfabeti sono tutti pieni di altri, ovviamente non sanno leggere e scrivere. Quindi è chiaro che occorre una... ma una volta che tu hai acquisito questa conoscenza in più, tu puoi comunicare con questa persona, sia pure a senso unico, cioè lei può comunicare con te, anche se questa persona non c'è. Quindi, in qualche maniera, la scrittura realizza uno spostamento nello spazio e nel tempo della parola e quindi realizza una comunicazione in assenza, diciamo, in assenza dell'emittente. Che conseguenze ha questo? Pensate all'importanza della parola, del concetto di parola. A questo punto il concetto di parola, se c'è uno strumento di questo tipo, se c'è uno strumento che consente di tradurre la parola parlata in parola, parlata in una serie di simboli che stanno permanentemente su un certo supporto, pietra, papiro, carta, creta, cera, tavolette di cera, no? Qualsiasi cosa, alcune più labili di altre, la sabbia è la più labile di tutti, però si può dire anche sulla sabbia, no? Come diceva la canzone degli anni 70, ho scritto Tamo sulla sabbia, no, cioè va bene, può essere a coso, non è che hanno, Barry Como, Love Letters and the Sun, erano due canzoni diverse, quindi, nel film di, non so chi era, Hiro, si vedono questi tipi che scrivono con grandi pennelloni, proprio impara a scrivere sulla sabbia, perché comunque la sabbia è un bel supporto, è mobile, certo che viene un po' di vento, un certo cazzo, non si può avere tutto, insomma. Allora, pensate a che cosa significa, che cosa diventa la parola per culture che abbiano, non tutte forse, ma ci sono due esempi che possiamo fare e sono non a caso gli esempi delle due culture che ibridando hanno dato luogo alla nostra, alla cultura dell'Occidente come la conosciamo noi. Pensate a cosa vuol dire, il logos per i greci e il verbum, una traduzione latina imperfetta, ma in qualche modo funziona, e a che cos'è la Torah per gli ebrei. Sia il logos che la Torah sono la parola, certo, quindi qualcosa che ricorda ancora l'atto, l'emissione di un fiato, l'emissione di una voce. C'è una voce, sia pure metaforica, dietro sia al logos di Platone, sia al logos del quarto Vangelo di Giovanni, sia dietro alla, diciamo, Torah. Però è una voce che non si perde più, è una voce che rimane. Quando il Vangelo Giovanni comincia e dice in principio erat verbum, in principio c'era il verbo, c'era la parola, il termine greco è logos, e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. E la stessa cosa è molto similmente per un ebreo. La Torah, cioè l'insieme, la Bibbia, quella che noi chiamiamo Bibbia, insomma, ma è la voce, è la parola di Dio fissata, come ci ha fatto vedere Cecil DeMille nel suo film Gli Spaventamenti, col dito di fuoco di Geova, che di fronte a un tremebondo Charlton Heston che regge sui due pietroni della Madonna, incide i 10 comandamenti sulla pietra. È la voce di Dio che diventa scrittura, che diventa qualcosa che si trasla, no? Ecco che una cultura che non abbia questo strumento non può avere un potere così forte, la parola. Certo, ce l'ha la parola dello sciamano, è la parola di colui che è stato dall'altra parte, di quello che ha fatto il viaggio, di quello che è tornato, di quello che ha... Ma la parola dello sciamano è una parola mutevole, vale per quella cosa, per quel particolare momento, per quell'argomento, per guarisce quel malato, risolve quella crisi. Dopo ce ne sarà un'altra, ci sarà certamente un diciamo, desiderio di stabilità e di trasmissione, diciamo, di identità, di rendere uguale qualcosa, ormai c'è anche nelle culture orali, certo, ma a che cosa è affidato la cultura orale? Alla continua ripetizione, generazione dopo generazione, di quello che è stato detto. E la ripetizione certamente configura uno strumento di identità, è chiaro, ma questa identità non potrà mai superare certi limiti, perché è sempre, cioè se non c'è l'azione sempre nuova del nuovo sciamano, che quando morirà il vecchio sarà in grado di prendere il suo posto e quindi avrà imparato a ripetere con delle variazioni individuali di cui il membro della civiltà orale è inconsapevole. Egli crede di ripetere, crede che lo sciamano abbia sempre sullo stesso testo, in realtà i sciamani non dicono mai lo stesso testo, lo ripetono sempre, ha fatto la prova Jeff Goody, che è uno dei più grandi antropologi culturali di area anglosassone, ancora vivo, credo, quando è stato a visitare i Lodaga, che è una popolazione del centro dell'Africa, a 20 anni di distanza, aveva delle vecchie trascrizioni del loro testo sacro, che è il Bagra, e si è dato la pena di confrontare quelle che riprendeva 20 anni dopo con quelle vecchie e quelle che veniva 20 anni dopo in zone, diciamo, diverse, e ha trovato l'esistenza di varianti anche cospicue, lunghe, eppure poi interrogava in quel caso non erano sciamani, insomma, quelli che recitavano questo lungo poema cosmogonico che loro si raccontano come segno di identità culturale, lo stesso, ma è sempre lo stesso, cioè sempre uguale, il Bagre, non cambia il Bagre, e lui aveva le registrazioni in cui venivano dette cose di sì, la storia era sempre quella al fondo, ma quindi ed è quello che rende, come dire, per certi versi così simpatiche, anche se così difficili, le culture orali, cioè perché sono culture in cui in fondo, cioè uno sgarra, non lo può, magari non lo sa manco, cioè si pensa, cazzo qui ragazzi, la Bibbia è la Bibbia, per fortuna che si traduce in tante lingue diverse, per cui per esempio la versione dei 70 per esempio ha tolto molte delle parolacce che ci stanno nella versione ebraica, perché sapete che la Bibbia racconta un sacco di storielline oscene, cioè quella di Lot, cioè gente sodomia, dentro gli abitanti di Sodoma che si vuole non prendersi ma uno sodomia che vuole manipolarsi gli angeli, rimandarsi da però per esempio i 70, cioè questa figlia di comitato centrale messo qua, ancora non c'era prima che fosse il Papa, sì c'era ancora, c'era Adamo, insomma era un Papa molto meno pericoloso di questi di oggi, non era un pastore tedesco, quindi insomma, quindi si vedeva un po' di parolacce da tolto, e effettivamente questa è la ragione per cui poi nei paesi di cultura cattolica la Bibbia non si fa leggere, perché farsi leggere la Bibbia davvero non fosse un cosa di leggere la Bibbia, perché è una roba scandalosa, cioè divertentissima per certi versi, però mentre i protestanti sono gnocchi, quindi loro possono pure leggere le cose più terribili, mi pare tutto più tempo, cioè, capite, Lot per salvarsi, cosa fa? Per salvare gli angeli di Geova, offre le sue figlie ai pedofili appigliatevi le mie figlie, Dio morte, non potete fare così agli angeli che sono angeli di Dio, ma cercate di capire. Non c'è niente noi, no, diciamo che se vogliamo, dice, scopatevi le mie figlie. E non si sa bene, ma pare che lui salva gli angeli così, cioè offre le sue figlie come. Però quello rimane, quando c'hai un libro, quello è stato fissato, è stato, quindi a questo punto da un sacco di punti di vista, però è ovvio che, sempre con un po' di eterogenesi dei fini, la presenza della scrittura dentro una cultura in realtà sblocca molte cose, perché senso di continuità culturale che è esterno, sta fuori, non è la ripetizione verbale. La società orale è terribilmente chiusa perché è ostile alla innovazione. Perché? Perché la cultura viene tramandata, bisogna fare, quindi i campi si arano, si fanno esattamente dove c'erano i nomi, cioè, ma c'è questa roba che non c'è questo arato, c'è questo arato di metallo, mi pare tutto, no, l'arato deve essere sempre di legno, di pietra, ma che cazzo c'è metallo? No. Ovviamente dopo un po' la forza dell'innovazione scappa da qualche parte, però quante migliaia di volte sarà stata inventata la ruota e sarà stata gettata via perché non era conforme agli... Poi certo, un po' uno si è reso adesso, ma chiaramente, cioè quante volte sarà stato inventato il basto, invece di strozzare le povere mucche che tiravano l'arato con la corda in mezzo al corpo, erano tre passi, si strozzavano, cazzo, prima che arrivasse uno, dice, cazzo, mettiamo una roba sulle spalle, cazzo, vedete, si ammazza, ma fa la cretina, eh? Eppure, per millenni l'agricoltura va avanti, con i buoi che fanno tre passi, Omero, è ancora così, cioè quando Ulisse, per non andare alla guerra di Troia, sapete, no? Cosa fa per andare alla guerra di Troia? Non ci va andare nessuno alla guerra di Troia, quindi. Allora, fra gli altri, Ulisse, che era più astuto, Odisseo, diceva che non vengono, allora mandano in giro uno che si chiamava Palamede, che è quello che scopre Achille, che stava all'isola di Sciro, travestito la donna, e Odisseo, che non voleva andare perché gli era appena nato il bimbo, Telemaco, che era un piccolino, Penelo, per amore, insomma, dice, no. Cioè, poi stava lì bene. Allora dice, mi fico pazzo, no? E allora cosa fa? Se in pieno inverno arriva a Palamede, sbarca e vede Odisseo mezzo nudo che ara un campo, una terra d'inverno, e sparge a piene mani del sale. Palamede che è astuto, cosa fa? La cosa ovvia, prende il ritmo, rimane un bambino, che guarda come è fatto bene, piglia in braccio il bambino, Teleno ce l'ha pochi mesi, e glielo mette davanti sulla traiettoria dell'onere, e ovviamente a quel punto Ulisse si ferma, e poi fa, ah, allora non sei pazzo, vieni qua, fai il tuo dovere, andiamo a Troia. E quindi sono capito. Bene, la mucca, il bue, con cui Ulisse arava il campo, era una mucca ancora che aveva la cavezza, la corda intorno al collo, passava in mezzo alle quattro zampe e dietro tirava, diciamo, l'arato, no? Un passo, due passi, forse tre, al terzo passo, a porti. Ma ti devi fermare, togliere l'uomo, no, è così, togliere l'uomo dalla terra. Risistemare il collo, fargli pappato, perché dice non è così dura, ma dai che prima di sera l'abbiamo fatto, e poi fa gli altri tre passi, cioè era una roba. È vero che era più facile che non con i poichisi prendere un pezzo di legno e a mano rivoltare le zolle, ok, veniva un po' meglio, però a casa era una roba veramente lunga. A un certo punto qualcuno dice, mettiamogli una roba sopra le spalle. Legato sotto la pancia, leghi delle cose dietro, tira la cosa e non si fa. Questo perché nelle civiltà orali è così, cioè ci si tramandano le cose una volta all'altra, e quindi le civiltà orali sono società pochissimo aperte al cambiamento, all'innovazione, eccetera. Ma in un certo senso può fare anche quella la scrittura, la fonda, la volontà dei 10 comandamenti, sono una tavoletta. Non c'è dubbio, però. Guardate che io mi sbaglio, ma dubito che non tutti i popoli del Medio Oriente con cui gli ebrei sono in contatto avevano la scrittura, alcuni sì, altri no. Comunque, non credo che se loro non avessero avuto, perché se tu guardi, come dire, poi anche la Bibbia, trovi dei sintomi molto interessanti di cambiamento, diciamo, loro sono. La Sacra Bibbia è la storia di un popolo che da nomade diventa sedentario, che scopre l'agricoltura, questa capirà che la sua storia, no? Qui prima c'è Abramo è ancora un nomade, c'è cioè Abramo. in mezzo c'è la storia dell'Egitto, c'è la schiavitù, eccetera, eccetera, eccetera. Però di fatto la Bibbia è la storia di come una popolazione cambia paradigma, di come cambia modo di vita, di come da nomade diventa sedentario. E tutto sommato gli ebrei danno prova, nonostante un certo integralismo, cioè il loro essere affezionati alle robe fondamentali scritte, diciamo, nel libro, li rende più capaci di una popolazione orale di distinguere l'essenziale da ciò che non lo è, nel come dire, restare fedeli. No, non hanno bisogno di restare fedeli a tutto, perché devono restare fedeli a quella cosa lì che sono le cose scritte, per il resto possono anche adattarsi. Certo, quando Mosè va sul Sinai, eccetera, eccetera, e in assenza di Mosè, si qua fanno il vitello d'oro, vuol dire che poi semplicemente voleva dire, siamo stufi di non mangiare, cioè, perché erano andava un po', eccetera, eccetera, almeno sto piano, perché questa era tutta la roba. Arriva, scende Mosè dalla Sinai, disgraziati ovviamente, perché in quel caso stavano infrangendo una delle robe di fondo, cioè la fedeltà. È molto simile poi alla roba dell'islamismo. Per certi versi, diciamo, l'Islam ripete più fedelmente che non il cristianesimo il modello biblico, perché è un popolo guerriero che si vuole espandere, eccetera, come erano gli ebrei. Non a caso tutti e due, privi della pretesa, diciamo, cristiana, il cristianesimo è l'unica fra le tre monoteiste che vuole convertire gli altri, vuole che tutti diventino cristiani, perché è una religione universalista, ma questo gli deriva dal contributo greco, dal contributo neoplatonico, del verbum, del logos, che il logos è universale, uguale per tutti, e quindi deve essere. Ebrei e islamici, ne frega un accidente di convertire gli altri. Sì, poi certamente stai lì, ma insomma, quando per esempio gli islamici hanno, dal 9 all'11 secolo la Sicilia, l'Italia meridionale, dal 9 al 14 secolo la Spagna, erano tolleranti verso l'altra religione, cioè ebrei, cristiani, fatto che pare, certo, se uno si voleva, diciamo, convertire, insomma, come dire, poteva. Gli ebrei sono addirittura ostacoli alla conversione degli altri, proprio gli mettono ostacoli tutti gli anni, bisogna fare una roba, far vedere di essere 100 volte più ebrei, anche se non lo sei, prima che ti diano, perché proprio perché sono diffidenti, perché diavolo vuoi diventare ebreo? Però da un punto di vista militare, eccetera, sono due popoli, sia sono gli ebrei dell'epoca storica, poi del regno di insomma, Salomone, eccetera, sia l'Islam, sono due popoli espansionisti. E però sono abbastanza. Il cristianesimo, a parte questa roba, come dire, universalista, però è stato ancora più capace di adattarsi alle altre due grandi religioni, cioè è stato ancora più in grado di separare alcuni pochi, relativamente pochi valori, diciamo, di fondo da diciamo, tenere fissi, e poi invece il resto. Più duttile, che più è più dinamica, è più espansiva e più variegata che l'uomo sia stato finora in grado di produrre. C'è un sacco di fighe, ovviamente, perché c'è un sacco di cose buone. Questo perché è la scrittura che, diciamo, al fondo, sapere, diciamo, riuscire a confinare gli elementi fondamentali di una cultura e non dover prendere l'eredità culturale in toto, come devono fare le civiltà orali, che non possono fare altro, che dovendo ripetere in continuazione, c'è poco lì da poter cambiare, non hai nulla, non puoi sceverare, non puoi distinguere. Poi anche lì certamente arrivano, quando arrivano quando arrivano gli inglesi alle isole Hawaii nel fine del XVIII secolo, certo anche lì entri in contatto. Popoli di questo tipo entrano in contatto con una civiltà più avanzata di te sul piano materiale, eccetera, e con dei valori così diversi, è chiaro che anche tu poi per allora, per esempio, lì arriva diciamo, la prima conseguenza fondamentale sulla cosa hawaiana è che i re di queste isole, quindi il re di questa confederazione di isole, trova un solo modo per mettersi sullo stesso piano del lontano re d'Inghilterra di cui gli raccontano Mirabilia, eccetera, perché sa che non può farlo sul piano terra, ma lo fa sul piano del suo viso. Improvvisamente dice, va bene, io voglio re, quindi si mettono lì, per mangiano come dei disperati e pesano 200 kg e trasferiscono a tutta l'elite hawaiana questa idea che il peso sia una cosa che prima non c'era, prima che arrivassero i bianchi. Sono effetti paradossali dell'esposizione a culture differenti. Quindi non è che le società orali non siano aperte al cambiamento culturale. Se tu introduci dall'esterno in una società del genere, hai degli effetti catastrofici. Le hanno seminate al di là del fatto che le abbiano parato addosso, insomma, le hanno seminate perché gli hanno tolto il foro locale. E comunque hanno determinato una serie di cambiamenti culturali rapidissimi in queste popolazioni. Hanno fatto lo stesso nell'isola Hawaii, dappertutto dove sono andati, dove c'è un contatto improvviso e drammatico e abbastanza concentrato nel tempo di civiltà, non è che le civiltà orali non cambiano. È che le civiltà orali hanno molte meno cause endogene, fattori endogeni di cambiamento, c'è poco cambiamento interno, diciamo, c'è una dinamica di cambiamento molto lunga, molto, molto. E come diceva lei, inconsapevole anche. E molto consapevole. Questo anche le civiltà della scrittura. Allora, Logos, Torah, la scrittura realizza lo spostamento nello spazio e nel tempo dall'apparizione della scrittura in poi, se ci fosse stato precedentemente un equilibrio tra parola e immagine, le civiltà della scrittura squilibrano molto più fortemente a favore della parola la funzione comunicativa e la funzione di coesione sociale. Nella società della scrittura l'immagine è fortemente subordinata, ancora più forse che nelle società orali, al potere della parola. Per tutta l'era della scrittura è la parola che conta. Pensate a quello che si realizza, pensate a uno degli esempi che si fanno quasi sempre per argomentare il potere delle immagini senza rendersi conto che invece è un argomento contro, e cioè la cattedrale gotica. Uno dice, ma la cattedrale gotica era la televisione di quei tempi, c'erano le immagini, sono esterne, sono i santi, eccetera. A parte però che devi andare tu, che l'immagine non è trasportabile, eccetera, eccetera. Ma tutte quelle immagini sono, come vi dicevo prima per la Cappella Sistina, illeggibili se non hai un codice, diciamo, il codice di lettura di quelle immagini presuppone uno strumento linguistico, la Bibbia, o anche le tradizioni orali, diciamo, delle storie di fantasmi o delle storie di quel particolare posto, perché i doccioni e i gargoyle di Nantes e di Reims e di Saint-Denis sono diversi da quelli di Parma e da quelli di Köln, sono intrecciati con le. Se tu non hai, e quello che conta è che queste immagini sono lo sfondo poi per la parola domenicale del prete, per la predica, per l'omelia, è lì che viene la direzione, è quella l'autorappresentazione sociale della comunità. ciò che dice il prete, ciò che dice il parroco, ciò che dice il vescovo, ciò che dice l'autorità religiosa, è la parola, perché l'immagine deve stare lì, non può essere, diciamo, trasportata, ed è il suo codice, la sua capacità, la sua possibilità di essere compresa e quindi di creare identità sociale dipende fortemente da una narrazione, da un racconto che si svolge con il potere della parola. La stampa per un breve tempo, ma per un breve tempo rafforza questa cosa. Voi tutti sapete che la riforma luterana protestante sarebbe stata impensabile se non fosse stato uno strumento che consentiva a ogni singolo cittadino, in realtà a ogni capofamiglia maschio, non so, di realizzare l'idea fondamentale di Lutero, cioè che il rapporto tra l'uomo e Dio dovesse essere poco mediato da una struttura ecclesiastica, ma dovesse essere più diretto tramite la lettura diretta del testo, lettura diretta, individuale, personale del testo. Intanto questo, se la maggioranza dei capofamiglia sono analfabeti, non si può fare. Ci vuole almeno una forte minoranza di persone che sappiano leggere e scrivere. Seconda cosa, se uno per poter leggere la Bibbia deve andare nello studio del prete che ha il manoscritto, è come se la forza e la potenza del prete sarà uguale a come se il prete parlasse. Quindi se non c'è la possibilità di avere a casa tua una roba che non costi tanto quanto, non può permettere di pagare un annuente che mi copia tutta la Bibbia, ci mette un anno e mezzo e lo devi mantenere lautamente, allora però un libro costa meno, perché è un prodotto industriale, è il primo prodotto industriale della storia dell'Occidente. Quindi senza la stampa la Chiesa protestante non avrebbe avuto la rapida diffusione che ebbe, e la cosa come ben mise in luce anche Max Weber nel suo libro sulla riforma protestante e lo spirito del capitalismo. Allora, l'ultima cosa, poi ci andiamo a casa. L'altro aspetto che la stampa mette in luce e che era soltanto implicito all'epoca della scrittura manoscritta è che la scrittura crea le premesse per la comparsa e l'apparizione di dispositivi tecnici che assicurino la comunicazione. La scrittura anche manoscritta già potenzialmente questo, perché c'è un codice che in questo caso è un codice di secondo livello rispetto al codice della lingua parlata, che è un codice di accoppiamento, e l'alfabeto, ecco perché l'alfabeto è così privilegiato da questo punto di vista, perché tra tutti i codici grafici, tra tutte le scritture possibili, è quello che realizza con maggiore fedeltà la trascrizione della catena della parola parlata su di un foglio. È una cosa che le scritture ideografiche e pittografiche non possono fare, sono più libere esse da un certo punto di vista, perché non passano attraverso la mediazione del suono,